Allora, salve a tutti, bentrovati e bentrovate per questa seconda discussione. Abbiamo parlato di Open Culture. In realtà già stamattina c'è stato un bellissimo panel al quale io non ho potuto partecipare perché presentavo il libro della parte Open Tourism, ma anche oggi pomeriggio parliamo di nuove idee per, diciamo, la valorizzazione del territorio, dello spazio pubblico. E lo facciamo con Maria Elena Colombo, che non sto a ridirvi tutte le lauree, master, guardate, perché è imbarazzante, poi l'abbiamo già detto prima. E comunque, insomma, se fate Maria Elena Colombo online, dovete passare questa mezz'ora a leggerle tutte, potete farlo serenamente. Poi alla mia destra c'è Bruno Pellegrini, che io conosco dai tempi di, cos'era, Blog Lab, no, così. No, ma prima, quando, ti ricordi che al Palazzo dei Congressi c'era una riunione di blogger, forse gli anni 20, forse, cioè, comunque, insomma, nel frattempo, mentre io non ho combinato niente, lui ha fondato Loquis, è un imprenditore, ha fatto tante cose prima di Loquis, ma ultimamente si è innamorato di Loquis, che è, secondo me, la piattaforma più interessante di, diciamo, che associa l'idea un po' del podcasting alla narrazione dei territori, da parte sia delle persone ma anche da parte degli editori, insomma, piuttosto qualificati. Hai anche pubblicato dei libri, soprattutto su questa, sì, su tutte queste idee di innovazione partecipativa, alcune delle quali erano semplicemente cose che piacevano a noi, poi alcune di queste nel tuo caso sono anche diventate poi, insomma, imprese, rischi imprenditoriali, insomma, a volte riescono, a volte no, però, insomma, sicuramente uno che si è sporcato le mani, come si dice, con la rete, e poi ha realizzato alcuni dei suoi sogni, ci racconterà magari qualcosa di Loki. Se poi invece alla, e non solo, e poi alla sua destra invece abbiamo Anisa Cucci, che io ho conosciuto al Museo delle Periferie, per tornare a Giorgio De Finis, dove la coinvolgemmo in un dibattito proprio sulle mappature partecipate. Lei infatti è la responsabile di responsabile OpenStreetMap per Wikimedia Italia. Allora, Wikimedia è questa organizzazione no profit molto grande che riunisce insieme alcuni progetti straordinari, tra cui Wikipedia, non bisogna mai confondere Wikimedia con Wikipedia, e anche questa sorta di Google Map dal basso, no? Che è OpenStreetMap, di cui magari ci parlerà, perché OpenStreetMap è una delle piattaforme usate anche per progetti di valorizzazione dei territori e di open tourism. Però poi, insomma, Anisa ha fatto tantissime cose, soprattutto nel mondo dell'open source, sta in vari gruppi Debian, si incontra con un sacco di nerd, di personaggi straordinariamente geniali e molto tecnologici, però ha anche una mente molto umanistica, e questo secondo me è il suo grande punto di forza. E poi abbiamo in collegamento dalla Sardegna, noi abbiamo chiamato un sacco di sardi a questi panel, ma perché? Perché i sardi dicono le cose come stanno, te le dicono in faccia, no? Tipicamente, ed eccone uno che non la manda a dire, insopportabile, conosciuto così su Twitter, Gianluigi Tiddia, per chi ha così la fortuna di conoscerlo di persona, l'abbiamo chiamato perché anche lui ha cose da dirci sul turismo in Sardegna, su come convive con la transizione digitale, su come a volte non convive affatto con questa transizione e su quelli che sono opportunità e ostacoli. Allora, qui, dopo aver parlato di cultura, di consumi culturali, oggi pomeriggio volevo un po' parlare di un'altra cosa, e cioè che, insomma, se guardiamo la mappa dell'UNESCO, no? dei siti UNESCO, una cosa che appare, adesso io avrei voluto proiettarla, ma adesso è un po' complicato, forse mi sono anche dimenticato di dirlo alla regia, ma non è un problema. Avevo una mappa che faceva vedere in tutto il mondo dove sono distribuiti questi siti dell'UNESCO. E, not surprisingly, l'Italia diventa una specie di foresta pluviale, no? Ci sono tanti pallini verdi, rossi, ci sono risorse naturali, risorse artistiche, eccetera, risorse archeologiche. Per metro quadro, credo che ce la battiamo con la Francia, per capire come si di UNESCO, che poi, guarda caso, sono anche le due destinazioni turistiche per metro quadro più importanti del mondo. però sotto questo primo strato, che sono i grandi siti dell'UNESCO, questa è soltanto la punta dell'iceberg. Ecco, guarda, è riuscito, ma io la regia la amo di Internet Festival, perché è riuscito a farci vedere, no? Vedete l'intensità, no? Dei siti UNESCO che ci sono in generale in Europa, però guardate, la Francia ha come si dice, un territorio molto più grande del nostro e ha più o meno lo stesso numero di siti complessivamente. Da noi è abbastanza un fuorilegge. Dicevo, questa è solo la punta dell'iceberg, perché se poi andate su sistemi di mappature partecipate come naturalmente OpenStreetMap o come anche in tutte le varianti, le istanze, perché OpenStreetMap genera tutta una serie di mappe verticali, quindi potete trovare tutte le tracce del Neozoico, no? Ci sarà sicuramente qualcuno che si è inventato la mappa di OpenStreetMap su questo, e la stessa cosa potete fare anche con mappe commerciali come Google, insomma. Una cosa molto meno importante dei siti dell'UNESCO, cioè il point of interest, cioè tutto ciò che ha un senso sul territorio, è anche lì l'Italia stravince, stravince ovunque. Un po' perché comunque siamo un paese che ha molti visitatori, quindi i visitatori arrivano e mappano e tracciano e lasciano, in certi casi, semplicemente testimonianze, recensioni che servono a far funzionare il motore commerciale di Google, in certi altri, magari invece vanno a popolare siti, mappe partecipate dal basso come OpenStreetMap, però quello che si scopre è che molti di questi point of interest non sono, come dire, portatori di significati universali, non sono per esempio monumenti. Un point of interest può anche essere un negozio di Subway. Può anche essere un OVS, la periferia di Mantova, dove però due persone si sono innamorate, no? E quindi lì viene fuori, per esempio, per quelle due persone, il significato individuale di quell'elemento e la storia che c'è dentro, da qui poi arriveremo anche a Locquis. Insomma, l'Italia non è solo una macchina di produzione di significati universali, ma è anche un luogo che aggrega un enorme potenziale di senso che nessuno è mai riuscito a monetizzare fino a questo momento. Da un lato mi dispiace, dall'altro sono persino contento perché vivo in un'epoca ancora che non obbedisce a un vincolo commerciale, almeno sotto questo profilo, ma lo dico semplicemente perché me lo posso permettere, quindi c'è anche come dire, un côté negativo in tutto questo. Insomma, io voglio partire, non mi ricordo da chi avrei voluto partire, vediamo un po', avevo messo Bruno per primo, per parlarci di mappe. Ancora una volta partecipate di opportunità di valorizzazione dei territori, che strada avete percorso con Locus? Vogliamo far partire il video che Aspetta, racconta. quindi lo facciamo Ma partire. fai prima, guarda, il video è pronto per partire senza pubblicità, quindi se ne sei minacciato dal tuo stesso logo qua dietro, però nel frattempo parlami un po'. No, intanto grazie di questa opportunità. Mi piacerebbe parlarne non tanto per presentare solamente Locus con questo video, ma anche per raccontare e forse condividere quella che è la genesi e il futuro poi del progetto che tu hai già comunque accennato. Locus parte, se vuoi, da quello che sono state delle intuizioni, dei puntini che magari poi sono riusciti a essere collegati grazie alla disponibilità e all'avanzamento della tecnologia. I puntini per me erano esplorare il mondo conoscendo le storie. Cioè, io sono sempre stato personalmente molto più entusiasta di camminare per i vicoli di una città, di un quartiere, con qualcuno che mi raccontasse le storie, che potesse essere un amico che vive in quel quartiere o un caro infante della situazione. Che mi raccontasse, mi facesse gustare appunto, so, le esperienze, le persone che ci hanno vissuto, le cose che sono successe, non solamente il monumento o la basilica. Preferisco forse personalmente questo tipo di esplorazione quasi debordiana, no? Di deriva nei paesaggi piuttosto che entrare in un museo. No, però è semplicemente una mia inclinazione, perché poi scopri che le storie sono tante, sono storie, no, di film che sono stati girati in quel posto, di personaggi che l'hanno vissuto in qualche periodo della loro vita, magari hanno un aneddoto da raccontare. Sono anche le storie che sono dietro, se vuoi, il gestore di quell'enoteca, che magari ha tutta una sua storia, che è bello conoscere, perché poi ti sta davanti la strada, esci di casa. E questo, diciamo, era un'esigenza che in qualche modo è esplosa, se vuoi, come in maniera estemporanea quando viaggiavo in autostrada. Per me il viaggio purtroppo è veramente noioso, è uno spostamento di solito da un posto all'altro. E poi sentivo queste radio abbastanza inutili che ti raccontano sempre degli incidenti, no? Sulla Como Chiasso piuttosto che sul Portonaccio, cioè, sempre vento forte tra Casella e Canossa, sempre, giusto? Sempre. Sempre. Però non mi raccontava, per esempio, quel paesino lassù che vedevo con una cupola cos'era, no? E per farlo, purtroppo, la tecnologia a disposizione il tempo fa era solamente quella di fermarsi, mettersi a guardare un cellulare, cercare di pigiare un tasto e capire quelle due o tre informazioni, cercando di non andare a sbattere magari in quel momento, così come passeggiando. Insomma, era abbastanza strano il fatto che l'esplorare il mondo avesse comportato di fermarsi e entrare in uno schermo, no? Era una cosa abbastanza inopportuna, no? E tutto questo mi ha portato anche a considerare che poi i luoghi cosa sono senza le storie che li raccontano, nel senso, uno può essere, sì, lo storico dell'arte probabilmente può ammirare anche la bellezza di questo posto, una persona normale che la devi un po' raccontare, anche far digerire, nel senso, se non ci sono le storie, i racconti, i luoghi perdono l'80% del loro fascino. Non parlo solo di opere d'arte, parlo anche di capire, magari di segnalare che lì c'è stato quel bombardamento o quel partigiano, no? C'è una storia bellissima, mi hanno raccontato adesso, al Pigneto hanno fatto un percorso di individuazione dei vecchi partigiani che erano andati, perché hanno trovato sotto il Barnici, dove siamo stati, una cantina che in realtà era il ricovero antiaereo usato durante la guerra mondiale, e prima ancora era una cantina di vino nel Medioevo, e prima ancora era una cava di pozzolana nel Pezzo, quel luogo, sotto un bar, no? Dove infatti il Point of Interest a Roma andrebbero fatti su 8-9 livelli. Cioè, ma sono, perché poi ci sono quelli individuali, no? Quelli che possono essere condivisi, ma portano un'esperienza, se vuoi, diversa. Per me è affascinante l'aspetto storico-antropologico, per altri può essere l'opera di street art. Quindi comincia a immaginarti il mondo con dei layer, con degli itinerari, no? Di punti, di diversi livelli, di diversi, no? Che danno senso a questo mondo. Ecco, fino a poco tempo fa non era possibile fruirne in una modalità, secondo me, come dicevo, opportuna, andando oltre quella che era la schiavitù dello schermo, no? Cioè, il mondo è bellissimo, però quasi, ma poi dobbiamo fare il 3D per andare a guardare la cosa dall'altra parte, non ha senso. Cioè, bisogna trovare un modo per arricchire l'esperienza di andare nel mondo, magari anche cercando come missione di spostare la gente dai mondi virtuali, facendoli capire che il mondo reale può essere molto più affascinante da godere, no? Dicevo, e da lì è nato tutto, perché poi i puntini si sono incrociati, nel senso il GPS che ci traccia sempre, ce l'abbiamo in tasca, e quindi possiamo pensare ad una piattaforma che sa dove sono, oltre che dove voglio andare, e mi può proporre in qualche modo i posti che a me piacciono, di mio interesse, raccontati dalla gente magari che fa parte del mio cerchio, che io ho selezionato intorno a me. E si è avanzata molto la parte dell'intelligenza artificiale, che ha favorito tutta quella personalizzazione, ma anche lo speech to text, il text to speech, quindi, no, il linguaggio che può consentire una digitalizzazione, può consentire di trasformare tutte queste storie in racconti orali, perché lì poi è l'altra cosa, è l'audio, infatti è quello che è audio e localizzazione, da lì viene locus, no? Che poi, se vogliamo, non è correttamente una parola latina, però può voler dire conversazioni sui luoghi. E la sintesi è proprio quella, cioè l'audio, il racconto orale, che forse è stato sottovalutato nei primi anni di internet, ma negli ultimi 20 anni della nostra storia, a favore di un compulsivo racconto visuale attraverso immagini, grafiche, teste che poi si skippano velocemente. Il racconto orale non è minore, anzi aggiunge, è molto più empatico, è molto più emotivo, ti costringe all'ascolto, ti costringe, diciamo, anche a farlo in un certo modo, quel tipo di percorso, quel tipo di racconto. Tutte queste tecnologie, il podcast, il GPS, insieme formano Locus, che possiamo sintetizzare una piattaforma di podcast dei luoghi o dei viaggi, che in qualche modo organizza tutti i contenuti che possono, per adesso sono corti perché sono così fatti per essere anche ascoltati mentre uno cammina, tutti i contenuti sulla base dei luoghi, e te li propone, per esempio, in maniera automatica. Oggi l'ho provato qui a Pisa, camminando, e ti racconta mentre sei davanti al murales di Tering, piuttosto che alla... Funziona anche in auto, l'ho provato in auto, è bellissimo. Con viva voce, tu sei in auto, si mette la modalità automatica, continuamente ti dice qui c'è questo, qui c'è quest'altro, questa è la storia di questo, e arriva magari da una voce, lasciamo dire, strutturata, no? Di un editore magari con cui avete fatto un accordo, ma poi può arrivare benissimo, anche se includi le storie personali, no? C'è la possibilità di includere le storie personali, arriva anche il racconto. Guarda, più che il video, sì, vorrei far ascoltare un Lois di un'associazione di Lerici e Lavagna che ha fatto Lois sul sentiero delle parole, che è un sentiero dei poeti che passa verso di questo, è una di Lois. Bocca di Magra, la bocca del fiume Magra. Qui possiamo decidere se fare la bellissima passeggiata lungo fiume oppure salire l'antico sentiero e arrivare fino a Monte Marcello e poi ancora a Tellaro, Lerici e San Terenzo. Possiamo fare entrambe le cose. Certo, ma in ogni caso la nostra decisione parte da un punto fermo. Ciccio. Hai fame, eh? Lo immaginavo. Fammi esagerare. Fame di cibo, di cultura e di storie. Sugar fornaciari. Organizzare, restituire le storie dei luoghi a tutto il mondo, in tutte le lingue. Oggi sappiamo che è fattibile, ci sono le tecnologie, la stiamo provando a fare, è bella, è entusiasmante, ci sono ancora tanti lavori da fare, tanto anche da migliorare se vuoi anche nel linguaggio, nel parlato, nel modo di raccontare, però si vede la possibilità di realizzare questo sogno, di poter anche salvare le memorie. Ci sono delle associazioni sul territorio, sulla Balduina, che hanno raccolto le memorie di com'era quel posto, no, negli anni 50, 60. E cioè, si ritorna all'archivio, che dicevamo. Cioè, tutte queste storie non possono necessariamente sparire come lacrime nella pioggia. Cioè, nel senso, è necessario che si crei una piattaforma del genere che salvi queste storie, le tramandi, non solamente per una esigenza di archiviazione, ma anche di intrattenimento, di bellezza, di recupero. Non è detto che a me serve ascoltare come premessa, non come conclusione. Esatto, perché poi c'è l'attualità, ci sono gli eventi futuri che possono essere raccontati, cioè ogni luogo è passato, presente e futuro. Allora, tutta questa cosa qui è, secondo me, necessaria farla, no? È necessario organizzarla, cioè è una missione. Poi la tecnologia ci sta, è a disposizione, è fattibile. Il punto, se vogliamo poi analizzarlo, affrontarlo, perché secondo me è un po' in luce quello che poi è il dibattito di oggi, è quali sono i modelli a disposizione per chi volesse fare una cosa del genere, come me, di realizzarla. Perché lì, a quel punto, devi prendere delle decisioni, nel senso che quelle decisioni che prendi possono alterare anche la visione che tu hai. Una decisione, perché secondo me tu dovresti fare due chiacchiere con una ragazza che è seduta accanto, che insomma, una delle decisioni chiave, no, ha molto molto a che fare con OpenStreetMap. Perché di OpenStreetMap noi vediamo le mappe, facciamo, le ingrandiamo, riduciamo, vediamo i layer, i livelli, tutti i ristoranti, tutti i bar, poi ci sono cose che magari su Google non ci sono, tipo le linee elettriche, c'è il palo, ho scritto questo è un palo, cioè c'è qualcuno che il palo del telefono fa parte di questa linea che collega quella centrale, cioè le cose che effettivamente, però lì ti fa capire che sotto c'è un database straordinario, quindi la prima, secondo me, decisione tecnica è: ma il database che fa funzionare tutto questo? Devono essere 20 database in guerra fra loro, per esempio quello dei beni culturali che hanno lanciato adesso, che ha il suo sistema di catalogazione, e quello invece di OpenStreetMap, e quello di non so quanti altri progetti proprietari, o, cioè, oppure bisogna andare verso... Sì, certo. C'è anche la grande opportunità di poter utilizzare come primo livello per coprire, per dare una prima copertura di senso, una serie di database pubblici o di open data o no, di anche, messi, anche lo stesso se vuoi di Wikipedia, eccetera, che secondo certe regole puoi comunque utilizzare per tradurlo e metterlo a disposizione. Chiaramente non sono fatti per essere magari raccontati, non perché le pagine Wikipedia diciamo, devono essersi utilizzate, eccetera, però c'è questa disponibilità, cioè i beni culturali hanno un database dei 6.000 musei d'Italia che comunque hanno un testo di 1.500 caratteri che può essere addirittura letto dai nuovi sintetizzatori diciamo, di voce artificiale in maniera sempre migliore, quindi c'è questa disponibilità che non ti costringe a popolare l'Oquis andando a cercare... creatore per creatore, no? L'Oquis adesso ha 200.000 storie, punti, no? Raccontati in audio, in diciamo, 80.000 in Italia e gli altri nel resto d'Europa, perché comunque il primo livello è quello di tutti i contenuti che sono disponibili e ce ne sono tanti, anche perché non tutti aderiscono, però c'è una direttiva, se vuoi, non so da che ministero è stata emanata, del public by default, il common by default, no? In cui le istituzioni pubbliche in teoria dovrebbero essere portate a condividere le informazioni dei punti di interesse del loro territorio, di quello che fanno, per mettere a disposizione di tutti. Adesso non tutti ci aderiscono, però diciamo il 50% delle regioni lo fa, lo mette a disposizione. A questo punto una delle attività di Locus che facciamo con degli editor esterni è quella di prendere questi database, geolocalizzarli, editare diciamo, le informazioni testuali, farle spiccherare in maniera naturale oppure automatica. E questo diciamo porta lì. Poi appunto la domanda è: una cosa del genere, se sono e siamo costretti a farla come impresa economica, certo. Ma una cosa del genere, come dico sempre, dovrebbe essere finanziata dall'UNESCO o da istituzioni governative transnazionali, perché non ha senso che venga ridotta schiava di un modello economico per essere realizzata. E questo è un punto importante anche rispetto a quello che si diceva prima di Mantellini e tutto quanto, nel senso che è vero che gli uomini sono gli uomini e alla fine internet è stata una delusione per tutti, ma si sarebbe potuto e dovuto fare qualcosa di diverso, non i lessi di turno che fa le conferenze, gli stati e i governi avrebbero dovuto dare una direzione diversa, proporre, sostenere direzioni diverse. In questo momento il dibattito sull'intelligenza artificiale è demandato completamente alle imprese private che hanno una bomba nucleare senza che nessuno se ne accerti o si ponga delle domande sulle conseguenze di dare in mano delle imprese finanziate da gente che non sa dove sta nel mondo, orientate solo al profitto, di utilizzare l'intelligenza artificiale per condurre l'uomo dove vogliono loro, a essere quello che vogliono loro, che non è certo un'opera diciamo salvifica e sana diciamo di... La corporativizzazione del problema è il problema. E io adesso sì passerei la parola sicuramente ad Annisa Cucci, che come dire dal basso all'interno della sua organizzazione, che però è un'organizzazione no profit, cioè non è il frutto di una diciamo rappresentatività di un organo politico, è semplicemente quello che internet è riuscito a tirare fuori da sola prima che siamo riusciti a distruggerla, cioè questo è fondamentalmente, e quindi è come dire veramente un fiore nel deserto tutto il progetto Wikimedia e in particolare OpenStreetMap, chiedo alla regia magari di mettere le slide perché Anisa ha qualche diapositiva per farci vedere qualche progetto di Open Tourism abilitato dal sistema delle mappe. Esatto. Prima di tutto grazie mille per l'invito. Allora, per chi non lo conoscesse, OpenStreetMap è un progetto mondiale di mappatura collaborativa, è il database più grande del mondo libero di dati geografici ed è un progetto estremamente personalizzabile, molto facilmente utilizzabile perché non ti richiede procedure burocratiche o procedure costose per usarlo, quindi può essere una buona base per tanti servizi e tanti prodotti. OpenStreetMap, questo progetto molto molto ampio, che io ho scelto la parola più semplice, mappatura collaborativa, anche database, ha dei progetti fratelli. Forse avete già sentito parlare, o forse anche usato, spero, Wikipedia, che è il progetto più conosciuto, progetto fratello di OpenStreetMap, però come Wikipedia ci sono anche altri progetti. Io vorrei prendere l'esempio oggi di Wikivoyage, che è più concentrato sul turismo, quindi anche una cosa molto più di interesse in questo caso. Wikivoyage è una guida turistica libera e sempre aggiornabile, è una guida turistica che è stata creata con l'obiettivo di diventare la guida turistica libera del mondo, che è costruita dai contributori, da volontari, nonostante che loro siano abitanti di un luogo o turisti che passano, vogliono aggiungere informazioni per quel luogo e poi lo fanno. Io per far più concreto questo esempio ho preso la pagina di Pisa su Wikivoyage, è una pagina esaustiva, piena di informazioni, questo screenshot, questa schermata non riusciva a comprendere tutte le informazioni che sono per Pisa perché ci sono informazioni fino a un dettaglio del tipo dove si può mangiare, dove si può dormire, eventi, feste che succedono in città, in questa zona, tante informazioni. Un altro esempio di questi tipi di progetti è Wiki Loves Monuments, che è il concorso più grande fotografico del mondo. È un concorso che è stato creato con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e i beni culturali, e invita tutti i cittadini di valorizzare questo patrimonio realizzando foto che poi vengono rilasciate con licenza libera. Una cosa molto interessante di questo concorso è il fatto che si concentra non solo nei monumenti che sono simbolo di una città, però in monumenti che sono altrettanto molto importanti, però che molto spesso vengono dimenticati, vengono trascurati, e facendo questo concorso si valorizzano questi monumenti e si mette l'accento nella importanza di preservarli e di tutelarli, questi monumenti, nonostante che non siano quelli che sono proprio il simbolo di una città. Quindi questi sono proprio i due esempi che sono, a parte OpenStreetMap che valorizza il territorio, proprio gli esempi più di interesse in questo caso. Bene, poi torneremo da te perché voglio chiederti qualcosa anche sul database, scusate la mia malattia, questa del database, ma adesso per introdurre l'intervento di Maria Elena, che abbiamo preso in ostaggio praticamente per tutto il pomeriggio, e magari anche se possiamo collegarci con Gianluigi, io vorrei, come abbiamo fatto prima per la cultura, anche sul turismo, leggervi un piccolo brano dal PNRR approvato il 13 luglio, sempre missione 1C3, intitolata inesorabilmente Turismo e Cultura 4.0, sempre questa 4.0, chissà quanto ce la porteremo dietro. dice il PNRR, verrà potenziata la piattaforma web centrale del turismo italiano che, su ispirazione delle migliori pratiche messe in atto in altri paesi, funga da volano per una comunicazione di qualità del patrimonio e dell'offerta del nostro paese e da strumento di aggregazione delle informazioni e dei servizi necessari all'incontro della domanda-offerta del turismo in Italia. Di che cosa secondo voi sta parlando? Sta parlando del portale italia.it. Maria Elena. Non se ne esce mai da questa cosa, c'è tutta la storia, 20 anni che... No, sì, diciamo che è una lunga, si potrebbe fare un documentario anche Giorgio, no, su italia.it a questo punto. Perché è un portale proprietario del paese, dell'Italia? Secondo me la risposta sta nella non competenza, no? Ma appunto, ma perché? No, dico, però non competenza lo diciamo a questi festival su italia.it o su altre cose, tipo la Netflix italiana, cioè queste cose diventano un po' parlettra di noi, però poi al prossimo PNRR c'è qualcuno che tirerà fuori la Amazon Prime italiana della cultura o la Google italiana delle mappe. Spotify. O il portalone delle regioni italiane. Io non so più dire se allora, come per la legislazione anche della quale ho parlato prima Gianluigi, dicendo che il legislatore è sempre indietro rispetto a quello che è successo in rete, nei comportamenti, nei modi di accesso, allo stesso tempo anche dal punto di vista delle scelte strategiche e tecnologiche sembra sempre che ci troviamo un po' in un paradosso, no? Perché da un lato la legislazione, le scelte strategiche sono queste che abbiamo visto, e dall'altra poi chiudono le scuole e al di là, come dire, un po' a dispetto di qualunque tipo di indicazione gli studi sui bambini e il digitale avessero detto, li abbiamo messi tutti lì davanti 5, 6, 7 ore a scuola, come se non ci fosse una domanda da farsi sul come, quando, quanto, con chi, accompagnati, non accompagnati, hanno un computer, non questo. E i giovani e anche gli anziani, che chi è che gli ha spiegato mai come aprire un browser, andare un indirizzo per farsi la prenotazione del vaccino? Quindi abbiamo questo paradosso in cui si muove in una direzione come non sapendo che in realtà tutti i movimenti culturali degli ultimi anni sono nati proprio, come dire, per una forma di outsiderismo. Infatti tu hai detto un po' colpevolizzato pure, no? Come se fosse, la vicenda di Aaron è abbastanza sintomatica, no? Come se fosse contro una sorta di legittimità. E dall'altra invece proprio quella legittimità va a finire per scavarci la fossa su legami con grandi cartelli, con logiche che sono di mercato e non né culturali né partecipative. Io non so più come, francamente, come se ne possa uscire. Lo vedo allora forse, siccome Gianluigi è uno che ci si scontra fisicamente, no, però insomma condivide sale riunioni, cioè, a volte con l'ostacolo, no? Perché lui sta facendo un grande sforzo in Sardegna per introdurre le pratiche digitali per valorizzare il territorio, magari ci può dire qual è l'ostacolo culturale, cioè come lui lo ha rilevato, capire esattamente che cosa si oppone per esempio al passaggio a nuove pratiche. Buonasera, grazie dell'invito anche a sé per interposto strumento. Mi fa una domanda molto complicata. La risposta è abbastanza semplice, però è una questione di totale inadeguatezza della classe dirigente, più che della classe politica. Non c'è proprio la percezione dell'utilità di quello che serve, e come diceva Mariano, si ha invece la percezione che tutto debba essere inquadrato in un modello economicamente sostenibile, quindi che debba in qualche maniera sostenersi per produrre reddito. E invece, come diceva prima Bruno e anche Anisa, la questione è molto molto più complessa e dovrebbe essere appunto una questione di politica prima ed economica poi. cioè il valore che esiste nelle storie, nella cultura proprio che abbiamo da condividere, da tramandare, da salvare anche, non viene percepita come utile se non appunto legata a una monetizzazione. Ed è questo scatto, diciamo, che non entra nella testa dei chi ci governa in generale, non solo in Italia in particolar modo, con le fantasiose e spesso anche surreali politiche che ultimamente ci accompagnano. Leggevi quella poesia del PNRR sulle parole volano, aggregatore, domanda offerta, manca un petrolio e sinergia, abbiamo fatto l'unplane. Sono più concentrati appunto nel vedere un modello di catalogazione non funzionale, però ha un senso del catalogare le cose. Penso molto, mi piace molto il modello Locus, modello chiaramente OpenStreetMap, che cataloga con un senso, cioè rende valore, dà anche una narrazione sulla narrazione, cose che invece spesso vediamo non esistono, cioè si fanno le cose proprio per diciamo, cristallizzare quegli elementi in un archivio, cioè passatemi il termine, burocraticamente, da mettere in cartella, protocollare e archiviare in un faldone, in una polverosa biblioteca, mentre invece questi sono utenti dinamici. Mi aspetto in futuro di vedere anche queste basi correlate con layer anche storici, quindi per navigare anche nel passato con le storie tematizzate, con argomenti trasversali che ci portano in altri luoghi. Il problema appunto è fortemente culturale. Con la cultura si dice non si mangia, si potrebbe però tranquillamente vivere benissimo se ci fosse più lungimiranza, non si buttassero invece ciclicamente fiumi di denaro in cose perfettamente inutili, che è perché hai citato tu. Mi aspetto la coronata della cultura tra un po', ma ci stiamo arrivando. Non sarebbe affatto male. Io torno però da Anisa, perché appunto anche Gianluigi parla dell'importanza di un database. Il modello di OpenStreetMap propone questo sistema di catalogazione dei beni, tutti i beni, non i beni culturali, cioè veramente anche il tombino sotto casa mia, dove c'è sempre questa etichetta, tag, no? Si spiega qual è la categoria, e poi il valore che viene associato all'etichetta, che è poi mutuato in realtà da Wikipedia, no? Questo sistema, o sbaglio. Io ti chiederei, intanto, questo sistema di catalogazione è completamente alternativo sia a quello puramente commerciale di Google Maps, ma anche a quello molto recintato di beni culturali online.it, che è interessante, indubbiamente passa avanti con ogni probabilità del MIBAC. Sì. Sul logo magari, insomma, possiamo anche sorvolare. Che però è rivolto a chi è una platea di professionisti, no? Cioè non è rivolto, cioè non è uno strumento per le persone. Invece la chiamata ad accoltare il progetto, dei vostri progetti, è sempre comunque in prima battuta alle persone, alle storie che hanno da raccontare. Questi mondi, diciamo, quello grassroots, no? Dal basso, quello commerciale e quello poi pubblico, istituzionale, per ora non si stanno parlando, cioè non c'è. No, anche perché appunto quando qualcuno tipo Alan Schwarz decide di tirar giù tutti gli studi e le ricerche dell'università di JSTOR e renderli pubblici, lo mettono in galera e poi alla fine si finisce per ammalarsi e per morire in un modo in cui gli hanno fatto una tale guerra che alla fine il povero Alan ci ha lasciato. Però insomma noi vorremmo che a un certo punto queste storie, questi sono gli eroi, diciamo, no? I caduti di questa guerra. Però a un certo punto bisognerà arrivare a una qualche sintesi. Io quello che ti chiedo, mi hai chiesto di dividere la domanda in due perché mi rendo conto è abbastanza complessa. Secondo te in che direzione stiamo? Cosa vedi nei progetti che segui? In che direzione stiamo andando? E basta, però mi fermo qua, perché sennò poi ti faccio parlare troppo. Poi, insomma, l'italiano sta diventando la tua lingua principale, però... No, va benissimo, parlo, lavoro tutto il tempo in italiano, quindi sono contenta, pratica per me. Allora, è vero che questi mondi non si parlano tanto tra di loro, e il mondo grassroots e poi è anche il mondo istituzionale. L'idea è che il mondo grassroots è molto molto importante. Secondo me, prima di tutto, è sempre meglio se c'è collaborazione tra questi mondi per arrivare a un successo completo, altrimenti non è possibile. Si può iniziare dal mondo grassroots, è sempre bene se si parte almeno da questa base, e poi collaborazione delle istituzioni. Io prendo un esempio. Per Wiki Loves Monuments, Wikimedia Italia chiede le liberatorie ai comuni per i monumenti, una cosa che sinceramente un volontario o una persona, un cittadino, non potrebbe fare in autonomia, perché non verrebbe mai ascoltato. In questo caso Wikimedia Italia fa da ponte e mette in contatto questo dal basso, grassroots, con questo livello più alto. Quindi deve essere collaborazione tra questi mondi, per poi, sperando di avere informazioni più complete e più strutturate, sempre però partendo dal basso. Ok, beh, qui io vedo un nocciolo di polemica con quello che dici tu prima, Bruno, che dicevi che sarebbe stato bello se gli stati si fossero mossi prima, non necessariamente. Ora io penso che alla fine si possa arrivare a una sintesi, nel senso che appunto molto spesso la legge finisce per fotografare e legalizzare quello che le persone fanno da soli, ma forse anche perché siamo in un mondo, Bruno, in cui la vecchia regola del marketing, ora non mi guardare male, no, quella per cui bisogna creare desideri artificialmente per poter creare un business, insomma, forse non è più così, perché noi facciamo delle piattaforme, BizStore fa una piattaforma, Twitter, le persone cominciano a usare l'hashtag, ok? E lui dice, questa potrebbe essere una funzionalità, cioè è marketing completamente rovesciato. Quindi noi stiamo guardando che cosa le persone fanno da sole, e poi sopra qualcuno ci potrebbe costruire un servizio, non pensi? Non è così semplice. Sarebbe bello che fosse così, che noi avessimo a disposizione un ambiente dove le persone naturalmente fanno da solo quello che vogliono. In realtà le persone in questo momento fanno quello che vuole qualcun altro, cioè gli strumenti che gli vengono messi a disposizione in maniera anche non troppo chiara e consapevole da parte di chi li utilizza, li costringono a fare determinate cose, a svolgere poche determinate funzioni, non di navigare, di fare tutto quello che vogliono culturalmente o no. Cioè le persone, vista da ormai il monopolio e la strapotere in termini di risorse che hanno pochi gruppi nel mondo, le persone vivono per la maggior parte del loro tempo dentro degli ambienti privati, controllati, influenzati da logiche che sono prettamente commerciali. Poi certo esistono pochi altri strumenti a disposizione, ma sono minoritari, sono molto meno potenti, frequentati. Secondo te Google, a volte, nel perseguire il profitto su un progetto come Google Arts Project, che è tendenzialmente monopolista, diabolico, quello che ti pare, però svolge anche un servizio pubblico nel perseguire il profitto. E quindi, cioè, l'innovazione di impresa crea valore. Però si sa, cioè per chi ha studiato economia, che l'innovazione di impresa porta a supplire la mancanza di un servizio pubblico vero e proprio, no? Cioè non è solo che siccome McDonald's crea posti di lavoro, allora crea valore, va bene, ma qui proprio Google si è preso in carico un pezzo di servizio. E va benissimo, come Google all'inizio ha fatto col motore di ricerca, ci ha reso tutto quanto più accessibile. Poi dopo arriviamo a un punto in cui questa accessibilità viene scambiata con una priorità rispetto alle cose che ci vengono segnalate, che comincia a generare degli effetti negativi. Quindi l'innovazione inizialmente, l'impresa crea sempre valore, perché in realtà risponde ad un bisogno, comunque mette insieme dei puntini, come può essere l'Oquis, no? Ma facciamo l'esempio di Locus, facciamo l'esempio che possa diventare un grandissimo successo. Ma quando è che diventa diabolico Locus? Quando sono costretto a sostenerlo esclusivamente con dei rapporti commerciali e quindi a far sì che le persone ascoltino e guardino quello che a me conviene come impresa, che loro ascoltano e guardano. Fino a che ci sono io, che me ne posso anche fregare di quello che può essere il profitto, va bene, ma se Locus si quotasse in borsa e io diventassi l'utile fantoccio di rappresentanza, dietro la società ci sono delle forze economiche, chi ha investito sulla crescita fa sì che l'algoritmo che viene messo dentro Locus favorisce una crescita commerciale e non culturale, perché il PIL non valuta quella che è la crescita culturale o di felicità di un popolo, valuta solo quella che è la crescita di revenues, e quindi siamo costretti ad andare in quella direzione. Allora, visto che ho Maria Elena che ha scritto libri su questo, commerciale o non culturale? Commerciale e non culturale? Mi sembra che separiamo troppo nettamente le due questioni, così come il PIL misura il nostro benessere dal punto di vista delle risorse finanziarie singole, ma quelli hanno anche, come dire, delle altre diramazioni, delle altre origini, delle altre ricadute. Il benessere non si può misurare solo in maniera finanziaria, quantitativa. E allo stesso modo a me sembra che siamo un po' arrivati, cioè io personalmente lo sento molto così, che questi bisogni ci vengono completamente, continuamente instillati nel circolo vizioso del cricetino che gira nella ruota, in una ruota di totale infelicità, perché da quella parte non raggiungi nessun obiettivo, no? Mentre il consumo culturale è quello che ti fa sì, che fa sì che tu possa riconoscerti nei tuoi limiti, possa riconoscere nell'altro il diverso che però ti arricchisce, possa. E allora forse le due cose non vanno concepite come dire agli antipodi. Secondo me, concependole agli antipodi, andiamo in due direzioni, appunto, che chi si occupa di cultura deve essere per forza l'outsider che non fa niente, non mi pagano, vado dritta, non c'entro mai con nessuno, ma vado dritta e non è giusto. E dall'altra parte chi invece vada al commercio, al lavoro, vada soltanto alle revenue. Ecco, non credo che sono due meccanismi. Un'area di intersezione tra i due insiemi, questo sì, un'area di senso. Sì. Vado un attimo per chiudere, diciamo, la parte frontale, perché poi forse qualche minuto per qualche domanda stavolta ci potrebbe anche essere. Chiamo ancora Gianluigi per un'ultima domanda. Allora, tu hai questa platea sterminata su Twitter davanti a te, no? Cioè, che sono i tuoi follower, cioè fa un tweet lui. Allora, cosa mi fa incavolare? Che io tweet una cosa intelligente, che ogni tanto succede, tipo a Capodanno, e mi arrivano due like, no? Lui scrive molte cose intelligenti, ma siccome appunto scrive molte cose intelligenti, fa un tweet scemo e ha comunque 150 like. Io vorrei a volte avere la libertà di essere scemo. Comunque, invece, Gianluigi, scherzi a parte, tu hai questo osservatorio, hai sempre usato Twitter dall'inizio con un occhio assolutamente, lasciami dire, laico e puro, no? Cioè, tu da lì metti una foto di una spiaggia in Sardegna col maestrale, eccetera, e succede qualcosa che però non viene mai rilevato da nessun indicatore, né economico, né turistico, né culturale. Che cosa succede quando hai quelle reazioni? Che cosa pensi? Ecco, vedi, si potrebbe fare questo, invece poi non viene fatto. Succede che le persone hanno bisogno di storie, hanno necessità di essere trasportati in storie che siano quotidiane, che siano appunto di luoghi, di altri luoghi, di altri momenti. E io, diciamo, tra virgolette, sfrutto, dovendo convivere con questa disgraziata sventura di vivere appunto in questa isola, appunto condivido questi momenti che vengono presi per un momento proprio di sogno, quasi di svago. Spessissimo tanti elementi, soprattutto quelli minimi, vengono apprezzati, perché al di là della narrazione generale, al di là delle narrazioni, diciamo, più popolari, è proprio la necessità di storie normali, di storie che proprio prendono, forse proprio per l'eccesso di storie raccontate, cioè l'eccesso di anche voglia di parlare, di raccontare e non di ascoltare, c'è questa attenzione a quello che è meno popolare. Cosa si può fare? Qual è la necessità? Sicuramente è quella di provare a codificare questa necessità di ascolti più attenti. Tu dici che i numeri spesso per le cose intelligenti non ci sono, mentre invece ci sono per le cose meno, un po' più leggere. Ed è molto vero questo, perché, come diceva anche Maria Elena, ci si un po' abitua a stare in un recinto e a farsi condizionare da quello che è la narrazione, il contesto, le interazioni, le relazioni, ma anche ciò che si dice, un po' un effetto pecora quotidiano che ci porta su livelli poco gratificanti, perché poi ci passa il tempo e non ci resta niente. Ecco, forse dovremmo andare in quella direzione, riuscire a cogliere quella necessità, perché è una necessità che forse è un po' nascosta da questa glassa un po' vischiosa che ci sta portando fuori rotta. Forse uno degli elementi è sicuramente l'assenza di un linguaggio comune, una interoperabilità anche tra tutti questi elementi, e un po' la frammentazione porta ad essere ancora meno visti. Ecco, forse un linguaggio comune porterebbe più attenzione. Questo è il mio pensiero. È giusto un inciso su quello che è la volontà dello Stato. In Sardegna c'è stato un esperimento nel 2008, quindi parliamo di tanti anni fa, di Sardegna Digital Library, un interessante esperimento regionale, cioè dell'ente, che si proponeva di catalogare tutto ciò che multimediale interessante ci fosse nella Sardegna. Esiste ancora, anche se poco aggiornato. Ecco, la necessità c'è probabilmente, però ci vuole una regia, una necessità generale, e noi dobbiamo essere più attenti anche a apprezzare e dare valore a quelli che sono contenuti di valore, quindi a trovarli siamo tutti responsabili, come se fossimo tutti curatori. Questo mi stai dicendo, curatori. Questo è probabilmente, cioè, le relazioni anche interpersonali, anche tra le piattaforme, fuori da quei discorsi appunto economici, quelle che, diciamo, ci condizionano nettamente, che chiaramente hanno un unico obiettivo, forse un unico obiettivo, quello di fare danaro, è probabilmente invece una coscienza più attenta e anche la volontà di dare più valore anche come relazioni dirette, e probabilmente insomma, una specie di militanza quasi che forse ci porta a un livello superiore, sicuramente un livello superiore di quello che stiamo vivendo, questo è indubbio. Va bene, grazie Gianluigi. Sono rimasti, io credo, una decina di minuti. Se volete fare qualche domanda ai nostri relatori, ragionateci anche due secondi. Io intanto vi dico, vi ripeto, che alle 18.30 cercheremo di chiudere un po' tutto questo discorso con una performance teatrale che parla. Poi la cosa bella è che mentre tutti parlavano io dicevo, ecco, vedi, questo c'è anche nella performance, ero contento, no? E poi naturalmente poi vedremo se vi arriverà, come si dice nei talent. E c'è qualcuno che alza una mano, tra l'altro non la vedrei mai, eccolo là. Ok, si parlava della performance. No, intanto aspetta che arriva il microfono sanificato. So qual è il titolo della... Beh, so qual è il titolo della prossima. Volano si titolerà e si ispirerà a questi testi comici che ci avete letto, meravigliosi, del PNR, PRN, non mi ricordo come si intitola. Il PNR è quello quando sì. Fai la prenotazione. No, io vorrei veramente fare una cosa, e quindi abbiamo il prossimo testo, Antonio, lavorateci per favore, noi poi lo mettiamo in scena, è uno spettacolo comico. La domanda è, e se no faccio come quello che si diceva ieri, che fa l'intervento. Devi anche dire a chi vuoi fare la domanda. No, non lo so, perché la domanda è, io speravo che ci fosse un vuoto normativo, invece ci hanno messo le mani, e quindi è un casino ora, no? Allora, c'è nel mondo, in Italia credo di no, ma nel mondo una parte politica, e dovete rispondere, un pochino più visionaria, lungimirante, che ha capito l'importanza di questo argomento, e se questa parte politica può riuscire a fare qualcosa appunto per migliorare il nostro ecosistema, perché mi sembra di percepire che sia un po' un'urgenza questa, no? Allora, non si può rispondere il partito pirata. No, la domanda in Svezia. Ah, sì. Allora, cioè, no, c'è un'altra domanda. No, era quello. Era sapere chi era. Ecco, se esiste da qualche parte un'ancora di salvataggio, una speranza di qualcuno che parla in maniera appropriata di questo argomento, e se nei tavoli dove si fanno le leggi in Italia c'è, siede qualcuno tipo voi, ecco, uno di voi cinque. Questo no, io quello che faccio, mi segno il nome e il cognome quando incontro una persona che può essere per me anche di Forza Nuova, cioè, se incontro qualcuno di un partito sanguinario eccetera, che però dice delle cose interessanti, mi segno comunque il nome e il cognome, che poi magari un giorno cambia idea, no? Sulla questione politica, e diventa utile sotto questo profilo tecnocratico, un po' così, no? Per le competenze. E qualcuno vuole rispondere? Do una risposta un po' a modo mio, nel senso che io sono arrivata a scrivere il libro intervistando, appunto, cercando una voce, come dicevi tu, che dicesse qualcos'altro, che desse speranza. E da un lato ho scoperto che anche i colleghi in giro per il mondo ogni tanto sono la mosca bianca all'interno di un'istituzione, anche se sono Victoria Nedalbert, anche se sono Cooper Hewitt a New York. Quindi innescare il cambiamento evidentemente è un po' faticoso dappertutto, però mentre parlava Bruno io pensavo che invece Nancy Proctor e lo Smithsonian sono invece un esempio che è avanti, non so, una ventina d'anni direi rispetto a noi. Tanto si entra gratis pure allo Smithsonian. Comunque i progetti di co-curatela con il pubblico esistono, c'è un'app che si chiama Be Here, che è appunto un racconto partecipato, geolocalizzato, ma c'è da tantissimo tempo, e Nancy mi ricordo diceva, ma perché voi non lo fate? È in open source, perché voi semplicemente non prendete questa cosa e non la usate anche voi? Perché? E ha ragione, però insomma, quindi delle voci che sono andate in un'altra direzione, io dal punto di vista politico non te lo so dire, se no le voci... abbia sentito di accettare. Cioè, non ha un colore politico l'incompetenza in questo momento? No, non mi sembra. Cioè, se francamente di questo possiamo, cioè, per questo possiamo sentirci lo stato sollevato e buttarci per terra, ma insomma. Vabbè, non è significato. Ci siamo amati molto. Non c'è stata una parola politica. Un po' rimango deluso dal fatto che non ci sia neanche, non emerga questo dibattito a livello intellettuale, diciamo, di personaggi che ne possono parlare. Nel senso, io non lo so se magari, cioè, provo ogni tanto andare in libreria e cercare nuovi saggi che mi possano aiutare a decifrare il mondo, questa parte del mondo, ma non trovo più il Lessig di 10 anni fa, non trovo più, no, 10 anni fa abbiamo finito lì, nel senso, nel 1960 c'erano Edgar Morin, De Borbas, cioè c'erano poi Francoforte, Habermas, perché lì era il momento di rottura, un grande dibattito, la televisione dove ci porta, e per un po' infatti è stato utile quel dibattito, perché la televisione per un po' ha anche assolto delle funzioni, no, culturali, sociali, non solo commerciali. A me sembra che, insomma, proprio anche, non so per quale motivo, ma sono 10 anni che c'è il silenzio anche da parte di intellettuali, professori, università, eccetera, su questo tema. Cioè, mi sembra che siamo noi folli, che poi non è vero questa cosa. È vera? Cioè, quello che dico io, la mia preoccupazione, è vera o sono veramente da internare in una clinica perché invece il mondo va bene così? Perché non se ne parla, non c'è un saggio. No, secondo me ne parlano persone, anche, scusate, più giovani di noi tre, non di Anisa. Più giovani, forse di me, di Bruno, e neanche di Anisa Maria. Cioè, comunque ne parlano, ma non ancora, non è difficile che scriva un libro per Einaudi, no? Un blog seguito da chi ma si interessa. Ma blog? Cioè adesso c'è il blog, dove stanno? Dove c'è la pagina Facebook. Cioè, esatto, al massimo. Oppure salta fuori qualche geniale influencer, qualche personaggio che magari non scrive il libro e non incontra la tua esigenza di una spiegazione strutturata, ma nel suo... O di proposte, perché sì. se non è l'università o gli intellettuali a proporre qualcosa, chi lo propone? Fedez? No, perché sennò che ci stiamo dicendo? Cioè una volta il governo e lo Stato prendeva degli spunti che venivano fuori da una classe di studiosi intellettuali che magari... Io chiedo alla regia se può, visto che prima ha messo l'immagine dei punti UNESCO, se c'è anche quell'altra immagine allegata, che era quella specie di tombola delle parole usate in tutte le discussioni su musei digitali, che io non pensavo di farmela vedere, no? Però se magari riusciamo a mandarla in onda, eccola qua, no? Io l'avrei distribuita a tutti quanti. E voi poi avreste detto Terno, Quaterna, Cinquina, Tombola. A un certo punto c'è Chiara Ferragni. No? Allora, io non penso naturalmente che Chiara Ferragni in questo momento abbia in mente di scrivere il libro, però le cose che sono successe hanno diviso clamorosamente il pubblico, anche degli esperti. Per alcuni c'è stata la levata di scudi, no? Non può andare lei agli Uffizi per far salire le visite agli Uffizi, cioè, anche se succede è sbagliato, è il male, e altri che hanno detto no, ma perché forse è un modo per cambiare il sistema dall'interno, no? Eccetera. E quindi facciamo chiudere a Maria Elena, che dice, perché lei questa vicenda ne ha scritto qualcosa, quindi se possiamo passargli il microfono è l'ultima sanificazione che chiedo all'organizzazione, che è comunque solerte. Speriamo che questa cosa francamente a un certo punto finisca, perché... sì, grazie. Ma è che credo che io la penso esattamente come Bruno, e credo che ahimè però appunto un intellettuale che diciamo fuori di dubbio intellettuale, per esempio Umberto Eco, però quello che pensava dei social lo sappiamo tutti, c'è un problema proprio di scardinamento di un certo tipo di pensiero che è, cioè, secondo me, ne parlavo con Luca dal Pozzolo a pranzo, con la pandemia lui diceva è finito il Novecento, è vero, c'è sempre un ritardo, no, nella chiusura del secolo, e ci pensate, 1815, 1915, insomma c'è sempre un po' di ritardo, e però bisogna prendere atto della lezione prima che insomma che si rompa tutto, però fino a che i luoghi chiave e i pensieri chiave sono appannaggio di chi ha come postura quella di non dare la parola, di non ascoltare, di non mettersi in discussione digitale. Per difendere una rendita di posizione. Esattamente, esattamente. Sì, sì, sì. E hai detto, cioè il governo, lo Stato, l'università, sono tutti posti nei quali, diciamo che posso dire, ma io dopo una delle mie, non ci stanno registrando, no? Comunque l'uomo settantenne, 75enne, 80enne che ha sempre avuto una vita lineare e di grandi successi senza avere la necessità e il bisogno di mettere in discussione sé, il proprio sistema, la propria famiglia, ci sono ancora posizioni applicabili. Sì. Va bene, allora io ringrazio naturalmente Anisa, Bruno, Maria e Gianluigi dalla Sardegna, che si lamentava di vivere in Sardegna, pensavo, cioè, mi ha fatto accapponare la pelle. Comunque lo salutiamo con l'invidia che è in questo caso opportuna, e ci diamo appuntamento qui se volete bevi un caffè, qualcosa, però se venite qui alle 6:30 vediamo anche la performance tutti insieme. Grazie.